Gli insediamenti urbani di Enne, seppur interessantissimi, non reggono il confronto con lo scenario naturale di Enne. Questo nonostante il colono abbia saputo integrarsi benissimo con la maestosità del suo ambiente. Ad esempio con le strade, i ponti, i tunnel che descrivono il territorio, occupandolo ma allo stesso tempo lasciandolo essere ciò che è, come una nervatura, un apparato linfatico. Le strade magnifiche che tagliano i monti, il più alto dei quali, il Monte Gal, con i suoi 12.000 metri, è il più alto della galassia. Attraversano le valli, si inerpicano sulle vette dei fiordi innevati e non sembrano arrestarsi di fronte a nulla. Se i coloni incontrano un ostacolo, lo aggirano, lo perforano, lo saltano, lo fanno infine proprio. Delle 1.000 strade percorse, 2 in particolare aprono scenari a dir poco poetici. In una, la strada che dall'ultimo tunnel della statale 15K porta giù all'agglomerato di Jay come un tuffo nel mare cupo del fiordo. Ogni angolo è punteggiato dal verde chiaro e dal ghiaccio. Siamo a 1.000 metri di altitudine, ma, e questa è una caratteristica della colonia di Enne, si devono aggiungere per così dire altri 2.000 metri per avere un'idea coerente dello scenario. A 1.000 ti sembra di stare in cima a una vetta di 3.000 metri. Per questo il tuffo nel mare ti sembra così vertiginoso? Tutto a Enne è diverso da quello che ci si aspetta. Le misure andrebbero ricalibrate. E non parliamo di pressione o ossigenazione, non ci sono problemi di questa sorta. Sono le misure della visione e della sensazione. È come se qualcosa di bello divenisse in Enne. Qualcosa che suscita una reazione maggiore almeno di 3 volte, una felicità rigenerata e inaspettata, insomma. Enne, ovvero le montagne sul mare, recita un adagio. Ed è proprio così, un ossimoro, direi. E questo genera inizialmente un senso di smarrimento. Ma le contraddizioni su Enne non generano che sgomento temporaneo. Il tempo di abituarsi alle sue forme è breve. Chi entra a Enne è costretto a modificare il proprio sentire. Il mare. Quando si scoprì, questo mare apparve come una sorta di unicum nella galassia. Al suo interno, nelle sue profondità, dai tracciati digitali, si sono trovati moltissimi indizi della presenza di organismi, di varie specie e ceppi genetici. Questa è ovviamente una grande scoperta e un grande investimento per il Centro di Fisica Organica di Enne, che spera, in breve tempo, attraverso un procedimento neutrinico, di poter ottenere ossigeno da tale risorsa. Al momento i coloni sono infatti in numero ridotto e questo consente loro di non avere preoccupazioni sul futuro delle scorte di ossigeno, ma un tale scenario si presuppone sarà presto popolato e allora bisognerà adottare strategie diverse. Spesso, a Enne, mentre percorri una strada, ti trovi di fronte il mare e inizia un tunnel che scende. E allora sai che sei sotto il livello del mare, anche di 1.000 metri, e che quel divino amico ti ha afferrato, ma ti lascerà andare, come un pescatore stacca dall'amo un pesce troppo piccolo. La strada 23W, detta anche la strada degli angeli, si inerpica di nuovo su, a partire da Jay. E diventa la strada delle aquile. Il suo percorso si apre su di un altopiano incontaminato di muschio, in cui la strada si adagia. I panorami che si aprono sono incantatori. Ti senti in un punto dell'universo in cui nessuno è stato prima. Ti sdrai a terra e sei un tutt'uno con il muschio, il cielo, il mare. Gli abitanti di Enne arrivarono qui attraverso una promessa e un impegno di rimanervi almeno per un periodo pari orientativamente a 3 anni solari. Quello che accadde fu allo stesso tempo miracoloso e spaesante. Tutto quello che succede a Enne implica infatti che i giudizi mutino, che muti la capacità stessa di giudicare, di provare una sensazione o riflettere su di un dato. Ed è per questo che un tramonto a Enne è uno spettacolo che a prima vista appare normale, ma che per gli abitanti di Enne si trasforma sempre più in un momento cui dedicare ogni risorsa intellettiva ed emotiva. Tutti gli abitanti di Enne interrompono il lavoro per dedicarsi alla visione del tramonto e ogni giorno questo tramonto appare diverso. Le strade a Enne non sono solo degli strumenti per spostarsi e comunicare. Per questo scopo sono a disposizione postazioni virtuali, ma è un dato ufficiale che tali postazioni, incluse nel programma di popolamento di N fin dalle sue origini, sono quasi completamente in disuso. Le persone preferiscono spostarsi realmente, nonostante le facilitazioni evidenti dei programmi virtuali. E questo accade perché le strade su N non sono strade normali. Un viaggio da un luogo a un altro non è soltanto consentito dai datori di lavoro, ma costituisce un'esperienza cui i lavoratori possono accedere ottenendo un premio da parte degli stessi datori di lavoro, i quali hanno dovuto controvoglia limitare i viaggi dei dipendenti per conservare un minimo di produttività. Ma anche questo è un dato molto relativo. A N i beni di sostentamento sono sempre sufficienti. Spesso provengono dalla ricoltivazione biotecnologica, che a N non necessita di particolare manodopera. Nei fatti, a N la manodopera è pressoché nulla. Le strade, dicevamo. Ad esempio la 16A è la strada che collega Moy a Kurt attraverso l'isola di Hol. In un tratto lungo qualche chilometro, la strada si appoggia su alcuni isolotti e intesse un tracciato vario e curvo, che visto nella sua globalità è un capolavoro di leggerezza e grazia. Le strade di N vanno ovunque. Qui arriva nel mezzo dell'oceano, di fatto così chiamato come reminiscenza delle distese d'acqua della Terra, quasi a dire che non ci si ferma davanti a nulla. In sostanza, questo oceano è uno spazio infinito di acqua che nessuno ha mai percorso interamente. Sono state fatte solo delle proiezioni digitalizzate della sua ampiezza. La strada si inerpica allora sul suo bordo gentile. La costruzione della strada non ci rimanda a nessuna tracotanza. Tutto è delicato, è l'uomo in simbiosi con la sua natura. Quasi l'aiuta a essere vista e ammirata. La grande curva aerea che la strada compie, a un tratto, è una delle visioni più belle di N. Eppure è solo una strada, non una cattedrale o la cresta di una montagna. E gli abitanti di N si riuniscono spesso ad ammirarla, cantano e bevono mosto d'uva, riprendendo così quelle tradizioni di cui ci parlano le fonti dei nostri antenati, stilate secoli prima. Si era soliti, infatti, intonare la voce all'unisono o in cosiddetto canone per allietare chi ascoltava. E si consumava una bevanda, ora completamente in disuso, ma che N si è ricominciato a produrre. Si tratta di una bevanda che nasce dalla fermentazione ottenuta attraverso organismi simili ai protobrioni che ricreano le radici tagliate dei tecnovegetali adatti all'alimentazione. Tale bevanda non è solo piacevole, ma i datori di lavoro di N ne consigliano l'assunzione anche per espandere le capacità emotive dei dipendenti. Tutto a N è, per così dire, votato all'emozione. Il traghetto che porta a Urn, sulle placide acque di un piccolo fiordo, a N i trasporti via mare sono ancora effettivi, ci consegna una salita che sembra semplice, sotto un sole cocente tra i campi di lamponi. Le mele poi, che sconfinano fino a doverle spostare dalla strada, danno un'idea di paradiso, dove le mele però non si toccano. Non c'è nessuno a custodirle, ma è come se i colori ti generassero rispetto. A N non esiste la sicurezza. In realtà esiste una piccola agenzia a Hol, la capitale, che si occupa della sicurezza dei cittadini, ma Hol è una città lontana. Se un tempo era una base obbligata per i trasferimenti intergalattici, ora questo primato vacilla, una città serena, ma lontana dal cuore pulsante di N, costituito dai suoi fiordi e dalle zone che si affacciano sul mare. La piccola agenzia di sicurezza di Hol è ormai quasi in disuso. I suoi attendenti sono impiegati in altre mansioni. Non esistono reati a N. L'ultimo di questi, assurdo ed efferato, compiuto molto tempo prima, era stato giudicato con mitezza dai cittadini di N, che avevano in questo modo dimostrato come quella follia fosse veramente un episodio isolato del quale non ci si doveva in fondo neanche occupare. Anche la giustizia, per gli abitanti di N, è subordinata all'emozione e alla felicità. In cima alla salita delle mele e dei lamponi ne hai una prova. Non c'è giorno in cui un gruppo di cittadini non faccia visita all'antica chiesa di Urn, dall'interno magnifico. Sul modello delle chiese in legno, costruite secoli prima sulla terra e ora tutte completamente distrutte dalla crisi del 2099. La chiesa di Urn ha su di una facciata un alto rilievo unico che rappresenta un modello della chiesa nella sua interezza. Ma nel modello manca l'alto rilievo, ovviamente, né vi è traccia di coloro che osservano la chiesa. Gli abitanti di Enne, infatti, non desiderano l'artificio, il mistero. Tutto per loro è semplice, o perlomeno riconducibile a una logica esatta e finita. Gli abitanti di Enne non credono in Dio. Inglobare tanta immensità è come voler imprigionare il mare in una buca. Inglobare tanta immensità è come voler imprigionare il mare in una buca. Inglobare tanta immensità è come voler imprigionare il mare in una buca. Inglobare tanta immensità è come voler imprigionare il mare in una buca. Inglobare tanta immensità è come voler imprigionare il mare in una buca. Inglobare immensità è come voler imprigionare il mare in una buca. I bandit come rigere qua. Akbu manuniram leran jir mirelo vemo che adis nemirna terabolni. Nomina nuda tenemus. Nomina nuda tenemus. Nomina nuda tenemus.